Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14, con interviste registrate su spettacoli e festival in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Roberto Latini per parlare di tre suoi lavori di Forte Braccio Teatro che saranno al Teatro Vascello a Roma. L'11 e 12 aprile i Giganti della Montagna, 14 e 15 aprile Amleto più Die Forti in Brass Machine e dal 19 al 22 aprile Il Canto dei Cantici. Roberto, benvenuto. Grazie a voi, eccomi. Giganti della montagna. Come lo descriveresti in breve? Sì. Ecco, Roberto, oltre ai paralleli con l'oggi, volevo sapere di cosa eri rimasto affascinato del testo di Luigi Pirandello. Credo sia perfetta per il teatro in qualche modo. Ho avuto la sensazione, poi stando sulle parole, che sono l'unico personaggio che mi sento di interpretare. Sono solo in scena, ma non nella sensazione di fare tutti i personaggi, proprio di non farne nessuno, e se ne faccio uno sono le parole di Pirandello. Quindi il mio proprio atteggiamento rispetto al testo è quello di stare nelle parole. Però le parole di Pirandello sono proprio per questa incompiutezza, ho detto già altre volte, come sorprese nella loro impreparazione. Quando un autore finisce di scrivere un testo, immagino sempre che torni indietro e vada a sistemare, a limare, a riconvocare alcune parole, a revisionarle. Queste sono invece parole che non sono state revisionate, non sono state rilette, diciamo, dopo aver scritto cala la tela, no? Sipario, come diremmo oggi, fine. No? Non c'è stata quella fine lì. Quindi la sensazione è che queste parole siano sorprese in una impreparazione, quindi perfette per il teatro. Roberto, come hai pensato, immaginato questa tua messa in scena? Pirandello stesso scrive il primo atto in un tempo precedente, lo intitola Fantasmi, diciamo il primo atto, nel senso una novella che poi era, sì, il primo atto per quello che è, diciamo, la misura di Pirandello, lui non arriva a scrivere il terzo atto, finisce al secondo e questi giganti non arriveranno mai. E questa è la condizione che mi sono tenuto. Abbiamo tenuto i due atti di Pirandello, li abbiamo così sentiti in una fantasmagoria del primo e in un secondo in una nell'arrivo poi che c'è nel, ecco, una definizione meravigliosa che da Pirandello credo mutuabile per il teatro in generale, l'arsenale delle apparizioni. Ecco, nel secondo atto cerchiamo di avere a che fare con l'arsenale delle apparizioni, così come indicato da quei fantasmi del primo atto. In questo, in maniera specifica, c'è un grosso lavoro sulla tua voce insieme ai suoni e alle musiche di Gianluca Misiti. Ecco, come state lavorando su questo aspetto e che direzione state prendendo in questo senso? I 25 anni sono appunto quelli proprio con Gianluca Misiti, quasi 25. Abbiamo fatto il primo spettacolo effettivamente nel 94. Gianluca Misiti è un musicista, compositore, e quello è il lusso, diciamo, dentro il quale io mi sono nel tempo costruito insieme a lui, insieme a Gianluca. Costruito gli spettacoli insieme a Gianluca principalmente, poi c'è anche Max Mugnai alle luci e alla direzione tecnica, però lavorare con un compositore, con un musicista come Gianluca vuol dire avere la possibilità di stare anche alla scena, fino proprio alla drammaturgia, in un senso, in una dimensione musicale, dentro concetti che sono di dinamica, ad esempio, è un concetto prettamente musicale, eppure perfetto per certe questioni teatrali, insomma, lavoriamo credo nel tempo senza metodo, cioè siamo riusciti a non darci un metodo costantemente, ma a cambiare ogni volta provando situazioni, tempi, modi diversi, quindi su questo forse è questo, diciamo, il motivo per cui siamo riusciti poi a non venirci a noia. Parliamo ora di Amleto e di Fortin Brass Machine. Ce lo presenti? Sì, è una riscrittura di una riscrittura. In realtà parte dall'Amleto Machine di Heine Nulla. E di quel testo tiene la struttura divisa in cinque episodi, come fatto dal drammaturgo tedesco. È quel testo vecchio di 40 anni, vecchio lo metto tra virgolette, aggiungendo una riflessione rispetto a questo passaggio generazionale, a una sensazione anche rispetto al teatro di ricerca o l'avanguardia o la drammaturgia contemporanea. Anche un testo come quello ha 40 anni e da figlio è diventato padre. Sono voluto tornare alle parole di Shakespeare dentro la struttura di Heine Nulla. Ho fatto questa operazione qui tornando alle parole di Shakespeare, ma in quella struttura, considerando possibile ora provare a sovrascrivere quanto già è stato riscritto. Siamo nella capacità di teatro nel teatro nel teatro, a questo punto, diciamo, della condizione teatrale, insomma, contemporanea. Amleto, ma sto pensando a Shakespeare. Shakespeare lo hai visitato più volte. Che rapporto hai con la sua scrittura? Beh, Shakespeare è il più contemporaneo dei classici, quindi è quello che si presta, a parer mio, maggiormente ad operazioni a seconda proprio del tempo in cui si vanno ad operare. Ecco, penso a Heine Nulla alla fine degli anni 70, riscrive l'Amleto in questi cinque episodi, in realtà sono neanche 10 pagine, però in un tempo particolare, particolarmente importante per la Germania dell'Est, lasciando da parte tutto questo e tenendosi invece la machine, tedesca, cioè la machine in inglese, insomma il corpo macchina di Amleto, quello che lui stesso definisce machine, il momento in cui Amleto è autore nell'Amleto di Shakespeare. Quando Amleto scrive la lettera Ofelia, si firma tuo Amleto finché questa macchina sarà sua, insomma, finché questo corpo sarà suo. Anenulla ne fa di questa macchina ne fa il corpo di Amleto, un corpo esploso, un corpo pentapartito, ripartito, e quindi quegli episodi lì ho provato a ricostruirli tornando a Shakespeare, ad altre interazioni, altre manomissioni, e abbiamo il nostro Amleto, la cui però firma si aggiunge a quella di Fortebraccio, a Fortinbras Machine, è il nostro Amleto. Per quel personaggio che è presente nell'Amleto, che non si vede mai, ma che c'è e si sente che c'è, e che arriva in scena quando Amleto muore, appena Amleto muore, appena il resto è silenzio, arriva Fortebraccio in scena e fa la domanda decisiva, chiede: "Where is this sight?", dov'è questa visione, dove devo guardare per vedere quello che c'è da vedere. Possiamo tradurre anche: dov'è questo spettacolo? Ed è effettivamente la domanda più contemporanea che possiamo farci rispetto al teatro. Dov'è? Passiamo ora al canto dei cantici. E questo, Roberto, come ce ne parli? Il Cantico dei Cantici è un testo per il nostro percorso è la quarta delle noosfere, di un percorso iniziato con l'osfera Lucigno, l'osfera Titanic, l'osfera Museum. A distanza di anni e anni abbiamo aggiunto ora questa quarta parte. In realtà vive come corpus a sé stante ed intreccia due percorsi fondamentali, questo delle noosfere e quello invece di un percorso dedicato precisamente alle parole dei testi, come anche i giganti della montagna sono in questo percorso. Il Cantico dei Cantici è un testo di una bellezza assoluta. Cerchiamo soltanto di non disturbare la bellezza di questo testo, che fa un po' impressione rispetto a dov'è, sta lì in mezzo alla Bibbia, più o meno a metà. Se gli si toglie tutto il carattere religioso, i riferimenti a Dio, la Chiesa, le interpretazioni possibili, e si prova a lasciare il più possibile la tu per tu, sono un lui e una lei che si dicono delle cose bellissime in una semplicità assoluta, e così è, insomma. Cerchiamo di essere ammessi anche noi alla bellezza di questo testo ogni volta che lo proponiamo agli spettatori. Dici a sé stante una quarta parte che ne prevederà altre? Sferico nel 2010, l'anno dopo abbiamo fatto un altro episodio, 2 anni dopo l'altro, 4 anni dopo, quindi forse fra 8 anni, siamo, diciamo, nella tempistica, dovremmo forse aggiungere un quinto episodio. Senti, per chi non conoscesse la vostra vicenda, come riassumeresti l'esperienza Fortebraccio? Resistenza che è diventata una riesistenza, un riesistere costantemente attraverso

su tutto, niente. Uno spettacolo che abbiamo provato pochissimo, ma abbiamo pensato tantissimo, perché appunto quando hai un argomento così vasto che vuoi affrontare, ma abbiamo letto appunto libri di economisti, ma anche cose che non c'entravano assolutamente niente, ma poi il problema è capire dove, da dove afferrare questa roba. Alla fine l'abbiamo afferrata, credo, l'abbiamo iniziato da un punto di vista apparentemente molto assurdo. Ora non voglio fare, come dire, non voglio anticipare molto, ma insomma, noi iniziamo a parlare di economia trattando della differenza incongrua di prezzo tra due oggetti apparentemente simili per la fattura materiale, eccetera, che sono una paperella di gomma e un'altra cosa di gomma che non dirò, insomma. E quindi iniziamo a parlare di economia in maniera anche abbastanza seria, partendo da un, come dire, da un lato, da una scusa, da un molto, molto parziale. Però insomma poi lo spettacolo si apre, diciamo così. Senti, come avete combinato la parola con il movimento del corpo? Ma diciamo che questo spettacolo c'è soprattutto parola, in effetti, perché anche Roberto evidentemente aveva voglia di finalmente dopo anni di coreografia di dire la sua, mettiamola così. Però in realtà poi ci sono anche c'è anche un'attenzione particolare, ma ci sono soprattutto Roberto in qualche modo si esibisce, danza, soprattutto in un momento in cui dal trattare l'economia in generale passiamo al trattare il fatto che lo spettacolo stesso è un oggetto economico, in questo modo dove l'economia fa tutto pervadere, quindi in qualche modo, che poi secondo me è anche una scelta giusta, insomma, perché non puoi parlare di una cosa pretendendo di esserne fuori, insomma, dentro delle dinamiche economiche siamo tutti dentro, quindi relativizzare e autoironizzare anche il ruolo dello spettacolo come oggetto economico e di questo stesso spettacolo che andiamo a fare come oggetto economico diventa secondo me il fuoco finale, il fuoco d'artificio finale di questo lavoro apparentemente sconnesso, ma credo con una sua coerenza interna abbastanza forte. Oh, Andrea, penso ad intervalli, ma comunque sta avendo un suo percorso. Che vita ha appunto questo spettacolo? Ma ormai giriamo da due anni e mezzo, credo, che è nato questo spettacolo. Ha una bella vita, una vita molto, molto soddisfacente. Scopriamo facendolo in giro da situazioni più convenzionali a altre meno convenzionali, insomma, che la gente, che il pubblico, non necessariamente quello più teatrale, ma anche quello più occasionale, ha voglia di parlare di questo argomento, di sentirne parlare. Insomma, devo dire che le reazioni delle persone dopo lo spettacolo, quelli che vengono a parlarti, a ringraziarti, insomma, che è una, insomma, è un'esperienza consueta quando si fa teatro, lo spettatore che dopo lo spettacolo ti ringrazia. In questo caso, mentre in genere ti ringraziano parlandoti dello spettacolo, che bello che poi sia, che ringraziano parlandoti delle loro esperienze con i soldi, con dei disfacimenti economici. Questo vuol dire che in qualche modo stiamo parlando di qualcosa che tocca le persone. Quindi anche la dimensione. Anche perché gli economisti, dopo lo spettacolo, sì, gli spettatori pensano che noi abbiamo delle risposte da dare. Lo spettacolo nascondiamo vilmente, ma in realtà non abbiamo risposte da dare, abbiamo solo domande da porci assieme. Quindi il surrealismo per certi versi e la risata si possono legare a questa dimensione economica del quotidiano. Beh sì, assolutamente, è uno spettacolo ancora più che surrealista, direi forse dadaista, che da un certo punto dà anche risposte patafisiche al problema della giustizia sociale, insomma. Quindi sì, assolutamente, credo che di questo almeno ci sia bisogno. Andrea, ci dai dei riferimenti internet per seguirlo e seguirvi? C'è il sito di Aldes da seguire, una compagnia della quale sono entrato ormai anche a far parte, quindi dentro Aldes si trova sia Trattato di Economia, sia tutte le produzioni Aldes, sia tutte anche le mie produzioni personali che sono entrate a farne parte, quindi se si cerca il sito di Aldes, che adesso ti do anche l'indirizzo del sito di Aldes. Pensa un po'. Quello preciso, se riesco a procurarmelo velocemente, sarebbe aldesweb.org. Questo è. Perfetto. E lì ci sono tutte le informazioni dei nostri spettacoli. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma con Trattato di Economia, Coreo Cabaret Confusionale sulla dimensione economica dell'esistenza, Teatro Biblioteca Quarticciolo. 12 e 13 aprile con in scena Roberto Castello e Andrea Cosentino. Andrea, è un piacere, un abbraccio e a presto, alla prossima. E a prestissimo, grazie a voi.

compagnie bravissime, naturalmente tutte romane, e il 3 aprile, così magari è una cosa divertente, invece ci sarà uno spettacolo a sorpresa, quindi gli spettatori non sapranno che cosa vedranno se non alle 8 quando comincerà appunto il sipario si aprirà e il pubblico vedrà chi avrà di fronte a sé. Bene. Allora, io come riferimenti vedo che c'è la pagina Facebook proprio dedicata alla rassegna, Rassegniamoci, giusto? C'è una pagina Facebook, c'è il sito, sì, che è Scoop Teatro, e c'è il sito di Scoop dove si trovano tutti gli aggiornamenti. Volevo solo ricordare appunto che tutti i martedì alle 7 c'è un aperitivo, alle 20 siamo molto puntuali, comincia lo spettacolo. E poi c'è il dopo cena tutti i martedì fino al 29 maggio. Perfetto. Che dire. Io ti ringrazio, Esther. Aspetta, sì. Lo sai che volevo dire invece? Insieme a me, naturalmente, vabbè, io sono un po' alla voce, ma insieme a me lavorano tantissime persone a questa rassegna. Da Giancarlo, Martina, Pier e Leonora, insomma, io un grazie particolare lo devo a loro perché le idee sono sempre belle, ma se non c'è un gruppo che poi le realizza, difficilmente, ecco, trovano spazio. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, a presto. A presto, ciao. È con noi Daniele Parisi, una delle anime di Sgombro, che sarà al Nuovo Cinema Palazzo il 13 aprile in un'edizione speciale, giusto Daniele? Sì, assolutamente. noi venerdì 13 andiamo di nuovo in scena in concomitanza con il compleanno del Cinema Palazzo. Noi siamo molto legati a questo spazio perché ci ospita ormai da 2 anni in questa cucina, insomma, di idee, ecco. Senti, visto che ogni volta vi sento un po' tutti a turno, facciamo sempre una breve presentazione di quella che è la formula Sgombro. Sì, Sgombro è, possiamo, a me piace definirlo come una specie di salotto intellettuale live, cioè vale a dire sono degli artisti autori, cioè, perché tutti quanti noi siamo autori di noi stessi, che a un certo punto hanno deciso di mettersi insieme per creare un luogo dove far nascere un linguaggio, perché poi di questo parliamo, e soprattutto di far nascere un contesto artistico dove collocarsi, perché spesso, soprattutto quando uno comincia a scrivere le proprie cose, non sa mai da dove partire, da dove iniziare, soprattutto con chi confrontarci. In questo modo noi abbiamo trovato una casa che ha un luogo specifico, a parte la Tana Sarda dove noi ci incontriamo per fare le nostre riunioni di lavoro, diciamo, ma il Cinema Palazzo è veramente un luogo dove noi una volta al mese ci esibiamo e con un linguaggio comico, e non di intrattenimento, ma un linguaggio comico, affrontiamo quello di cui noi parliamo ogni volta nella maniera più disparata, e ognuno di noi sta crescendo e sta raffinando il proprio stile, talvolta prendendo spunto anche dagli altri, perché poi il bello è proprio questo, insomma, ecco. Allora, c'è un conduttore o una conduttrice e ci si alterna tra musica e parole. Questa formula, questa edizione del 13 aprile, e quanti sarete? Come si svolgerà? Ma allora, noi siamo i soliti di Sgombro, quindi Claudio Morici, Ivan Talarico, Gioia Salvatori, il Nano Egidio, Cecilia D'Amico, Daniele Fabbri e Giovan Bartolo Botta, il doppio senso unico, e però per questa edizione credo che ci saranno anche altri ospiti che sono molto legati al Cinema Palazzo. Adesso dobbiamo ancora capire esattamente chi ci sarà, stiamo invitando di tutto e di più, insomma ci sarà una bella sorpresa, anche perché vediamo se anche qualcuno che solitamente non prende parte, magari esce tra i sociali, insomma, ecco, magari può creare un punto interessante, insomma. Ed è la formula è sempre la stessa, un conduttore, che in questo caso è il nostro straordinario Ivan Talarico, e ognuno di noi si avvicenda sul palco per 5-10 minuti portando un piccolo estratto dai propri spettacoli o, come sta succedendo già da un po' di tempo, con degli inediti. Sì. Daniele, diamo tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Assolutamente sì, c'è una pagina Facebook dove potete andare a vedere Sgombro, c'è un pesce, ve ne accorgete, dove appunto ci sono tutti i nostri riferimenti. Una volta al mese noi siamo al Cinema Palazzo e insomma vi aspettiamo, ecco. Ecco, a questo punto diamo anche l'appuntamento per la prossima, quella normale di serata. Sarà a maggio, dovrebbe essere il 12, non ne sono sicuro, che dobbiamo ancora accordarci con il cinema, perché appunto con aprile in qualche modo finisce in un certo senso la stagione con il compleanno. Adesso stiamo valutando la data di maggio, ma insomma a breve lo sapremo, la diremo sicuramente il giorno del compleanno, ecco. Daniele, un abbraccio e ci si vede in giro. Grazie mille, Ciao. ciao a te, ciao. Eccoci con Riccardo Brunetti, coautore e regista di Augenblick, l'istante del possibile, al Teatro Studio 1, dal 4 al 15 aprile. Riccardo, benvenuto. Ciao Federico, ciao a tutti. Raccontaci un po' di questo spettacolo. Beh, allora, Augenblick è la prima esperienza immersiva che abbiamo creato nel 2015 e che ha avuto alcune fortunate riprese, tra cui quella attuale, che andrà dal 4 al 15 aprile, appunto. Ed è un'esperienza, nel senso è molto difficile descrivere esattamente di che cosa si tratta. Diciamo che è una forma di teatro chiamato teatro immersivo, che innanzitutto il primo criterio è che non si basa esclusivamente sull'udito, la vista e l'intelletto, ma utilizza anche gli altri sensi, per esempio l'olfatto, il gusto, il tocco. E quindi c'è una scelta di fronte a ogni spettatore o partecipante, diciamo. La scelta è quella di essere soltanto testimone di quello che sta succedendo, oppure di in qualche modo entrare e partecipare in alcune maniere strutturate, perché quello che facciamo è una storia, raccontiamo una storia molto precisa, ma questa storia ha degli spazi di interazione. E se qualcuno vuole venire ad interagire, a giocare con noi, ovviamente non c'è fondo a questa Senti, interazione. come ha avuto origine tutto? Il tutto ha avuto origine con il fatto che io e alcune persone con cui collaboro, tra cui ci sono Silvia Ferrante, Sandra Albanese, Anna Maria Vella, Alfredo Pagliuca, queste, diciamo, sono le persone con le quali collaboro da più tempo, abbiamo conosciuto il lavoro dell'Immersive Theater in Inghilterra attraverso i lavori degli Shant, dei Punch Drunk, e questo ci ha molto colpito, soprattutto per la linfa vitale di risposta che avevano dal pubblico inglese. E allora nel 2015, anzi nel 2014, ci siamo detti, vediamo che cosa succede portando un'esperienza simile, diciamo dello stesso sapore in Italia. Abbiamo trovato la complicità, che poi negli anni è diventato un sodalizio artistico con Alessandro Di Somma e Leonora Turco del Teatro Studio 1, e da lì è cominciata questa avventura che ha visto la creazione a Roma di due spettacli. Il primo fu Augenblick, che è quello che stiamo riprendendo ora, e poi c'è stato nel 2017, abbiamo creato un nuovo spettacolo che si chiamava La Fleur, e che magari riprenderemo in futuro. Ci parli anche un po' dell'esperienza di Project XX1? Ah, Project XX1 è il nome che noi diamo a questa questa direzione di lavoro, non è un gruppo stabile, ci sono sicuramente dei membri più anziani e dei membri più giovani, ma in realtà noi creiamo, siccome per organizzare un'esperienza immersiva è una grande produzione, nel senso coinvolge almeno una quarantina di persone fra performer, staff e persone che lavorano dietro le quinte. Quindi diciamo ogni volta ci accompagniamo a un gruppo di collaboratori che cambia sempre lievemente, qualcuno si unisce al gruppo già esistente e comincia a lavorare con noi. Mm-hmm. Questo è project, non è una vera e propria compagnia, è più una direzione che qualcuno può sposare per un periodo, per un progetto appunto, e poi andarsi a dedicare ad altre cose. XX1 si riferisce al XXI secolo, perché diciamo questa forma teatrale è nata nel XXI secolo, anche se ha le sue radici nel Novecento ovviamente, però è nata nel XXI secolo, si è sviluppata nel XXI secolo e ha qualcosa a nostro avviso che è assolutamente, coglie assolutamente qualcosa della contemporaneità. E questo probabilmente giustifica anche la buona risposta di pubblico che ha, anche diciamo essendo noi relativamente conosciuti. Ecco, ci parli un po' del fenomeno inglese? E il fenomeno inglese è stato travolgente, addirittura oramai Immersive Theater, anche come sta diventando in Italia, noi stiamo seguendo quello che succedeva 5-6 anni fa, almeno in Inghilterra, cioè per esempio la parola immersivo, come qualche anno fa la parola site specific, è diventata una parola chiave che adesso viene applicata a tutto. E mentre agli inglesi oramai è venuta nausea di sentire questa cosa, questa parola immersivo, invece in Italia adesso è molto in auge e quindi tutto è diventato immersivo, la mostra immersiva, lo spettacolo immersivo, però in realtà oltre che essere una parola chiave, il teatro immersivo ha una tradizione ben precisa, ha dei riferimenti ben precisi, che ne so, in Italia potrebbero essere alcune esperienze che venivano dalla Spagna con Enrique Vargas e il teatro dello Sentidos, oppure la Fura del Spaus per alcune cose sempre spagnoli, o addirittura fra i nostrani gli esperimenti di Ronconi con la contemporaneità nell'Orlando Furioso nel 69 già avevano i segni di questo movimento. Questo in Inghilterra si è sposato con una concezione molto diversa del ruolo dello spettatore, molto più interattivo, molto più attivo, perché la contemporaneità della storia che si svolge obbliga in un certo senso le persone a scegliere in continuazione quello che vogliono vedere, e questo significa da una parte anche fare un'esperienza da spettatore o da spettatore partecipante molto diversa rispetto a quella di uno spettacolo normale, una normale performance. È come se qualcuno dovesse chiedersi in continuazione che cos'è che voglio seguire. Mm-hmm. Ci dai anche tutti i riferimenti web per seguirvi? Certamente, allora Project XX1 è attivo principalmente, come molte cose oggigiorno, su Facebook e Instagram, ma ovviamente noi abbiamo anche un sito che potete trovare dalla pagina Facebook, che ovviamente è visualizzabile anche per chi non ha Facebook, basta cercare Project XX1 Facebook e poi da lì si apre un mondo, perché il teatro immersivo, le esperienze immersive sono delle esperienze transmediali, nel senso non si limitano soltanto alla performance, la storia straborda anche sul web con materiali fotografici, video, testuali, dei siti dedicati per esempio a alcuni aspetti della storia specifica. Questo è accaduto sia con La Fleur e adesso accade con Augenblick, quindi andando a curiosare in rete si possono trovare un sacco di informazioni, un sacco di esplosioni della storia in senso digitale. Un'ultima curiosità, questo titolo? Il titolo ha più significati, in tedesco Augenblick significa battito di ciglia e indica, è una parola per dire un istante, un attimo, difatti il sottotitolo in italiano è l'istante del possibile, e questo ha più significati perché questo si riferisce sia all'esperienza immersiva, dove l'istante è tutto, nel senso è trovare una cosa, una piccola perla, andarla a cercare,

Allora, ricordiamo l'appuntamento con Milite Ignoto 15-18 di e con Mario Perrotta al Teatro Palladium a Roma, 9-10 aprile. Mario, è sempre un piacere, ci sentiamo presto. Mio, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Siamo in compagnia di Giovanni Esposito che sarà in scena a Roma nello spettacolo Circus Don Chisciotte, testo e regia di Ruggero Cappuccio che sarà in scena insieme a lui al Teatro Eliseo dal 3 al 22 aprile. Giovanni, ben trovato. Buongiorno, ciao, bentrovato. Ci dai una lettura di questo lavoro? Guarda, la lettura che vi do è, insomma, una lettura di uno che è rimasto affascinato dallo scritto e da come si è poi venuto a compiere il lavoro finale, perché veramente sono stato affascinato completamente dalla riscrittura di questo Don Chisciotte, di questo uomo che cerca di salvare questi libri e questa memoria dagli assassini dell'umanità. E questo Michele Cervante, che è interpretato da Ruggero Cappuccio, che è un uomo dei giorni nostri che si sente un discendente per la via genetica di Don Chisciotte, sostenendo che nel 1500, quando Cervantes è venuto a Napoli, ha avuto una donna, da questa donna dice letteralmente, ne ha fatto zampillo la progenie arrivando fino a lui, e quindi lui si sente un discendente di Miguel de Cervantes, e quindi in questo caso per la proprietà transitiva anche di Don Chisciotte, e quindi un novello Don Chisciotte. Arriva in questo binario morto della stazione, dove trova quest'altro individuo strano che vaga tra i vagoni, che si chiama Salvo, e che lui, diciamo, lo rende suo scudiero e lo fa salvo panza. E diciamo, è molto particolare. Lo spettacolo è di grande riflessione, come sempre nelle scritture di Ruggero, però è anche di grandissimo divertimento, ma anche perché dopo entra tutta una baraonda di personaggi interpretati da Gia Martire, Ciro Damiano, Giulio Cancelli e Marina Sorrenti, che vengono ad animare, sono tutti, come dire, esclusi dalla società, che vivono su questo binario morto, ma che portano un'eredità di sentimenti, di anime, che mettono in campo, per fare questa avventura, diciamo. Giovanni, quali sono gli aspetti di questa riscrittura di Ruggero che più hai amato? Ma sicuramente il modo di trattare, questa memoria dei libri, è una cosa, insomma, il fatto che lui l'abbia dedicato a Marotta, che è il fondatore dell'Istituto degli Studi Filosofici a Napoli, che ha passato tutta la sua vita a cercare di salvare libri che riteneva la memoria fondamentale per continuare ad andare avanti, perché questa umanità si continuasse a muovere, è una cosa che mi ha affascinato tantissimo. Sì. E anche quando alla prima è venuto il figlio di Marotta, è stata un'emozione unica, perché rivedeva in quell'uomo che cerca di lottare contro tutti per quello suo padre, quindi è stato molto, molto emozionante. E poi mi piace sempre di Ruggero questo riuscire a mischiare una risata alta, ma che è una risata di pancia, con un aspetto mentale notevole. Giovanni, che origine ha avuto lo spettacolo? Lo spettacolo è nato per lo stabile di Napoli, diciamo un anno fa ormai, poco più di un anno fa, ed è stato lì 2 settimane. Insomma, Ruggero ha fatto questa riscrittura proprio apposta per il San Ferdinando di Napoli. Com'è stata l'interazione tra voi? Come l'avete costruito lo spettacolo? Ma l'abbiamo costruito, diciamo, Ruggero aveva abbastanza le idee chiare, però su certe cose di relazione ovviamente siamo andati anche molto a istinto, a braccio, bella, è stata una cosa bella, è una cosa che poi tra l'altro è il secondo lavoro che faccio in teatro con Ruggero e succede tanto. Ci abbiamo una bella alchimia, ci troviamo perfettamente senza, come dire, lasciando da parte il superfluo e badando al sodo, quindi è una cosa che mi piace molto. Oh, dicevi di un anno e mezzo fa e quindi proseguirà ancora il suo percorso. Il suo percorso, sai, non è uno spettacolo semplicissimo, c'è un impianto scenico molto grosso, cioè se basti pensare che entrano dei veri vagoni in scena, cioè dei vagoni ricostruiti, una scenografia meravigliosa di Rubertelli, ma entrano dei vagoni diversi tra l'altro, quindi non è proprio uno spettacolo agevole e semplice da poter fare in tanti teatri. Vedremo che cosa succede. Poi sai, essendoci in scena Ruggero con tutti gli impegni che ha, diventa anche complicato, però ovviamente per noi tutti, ma anche per lui è una gioia farlo, per cui insomma, si vedrà. Senti, finora le risposte del pubblico come sono state? No, le risposte del pubblico sono meravigliose perché non si aspettano anche quel tipo di divertimento, non dico di comicità perché non lo è comicità, ma quel tipo di divertimento non se lo aspettano, per cui poi dopo, come dire, quando fai scivolare il pensiero su una risata e arriva come una lama, arriva a doppio e quindi vengono sorpresi da tutto questo. Allora ricordiamo l'appuntamento con Circus Don Quixote, testo e regia di Ruggero Cappuccio, che è in scena insieme a Giovanni Esposito al Teatro Eliseo a Roma dal 3 al 22 aprile. Giovanni, io ti ringrazio, un abbraccio e ci si sente presto. Grazie a te, un abbraccio e venite proprio all'Eliseo perché è imperdibile. Ciao. Un abbraccio, ciao ciao. Con noi Raffaele Di Florio, regista dello spettacolo Emone, la tragedia di Antigone, secondo Locunto dello innamorato di Antonio Piccolo, che sarà in scena al Teatro India a Roma dal 10 al 15 aprile. Raffaele, benvenuto. Buongiorno a tutti voi e agli radioascoltatori. Come ce lo presenteresti? Chiaramente attinge dalla nota tragedia di Antigone, no? Del ciclo tebano di Sofocle, dove Antonio Piccolo, questo giovane autore napoletano, ha fatto un'operazione molto intelligente, interessante, vertendo su due filoni. Uno è lo sguardo dal punto di vista attraverso gli occhi del innamorato cugino Emone, appunto, e l'altro, che nella tragedia Sofoclea c'è, come se nelle altre parti, però è sempre relegato a una scena molto piccola ed è diciamo una figura minore nella tragedia greca. Mentre la seconda parte, che è ancora più interessante, è dopo un'operazione linguistica. Piccolo si è inventato un linguaggio attingendo da un napoletano antico, appunto da quello del linguaggio del 700 del Basile, reinventandosi una lingua ex novo, cioè un napoletano inventato, dove c'è una commissione di termini seicenteschi con termini contemporanei. Sì, sì. Senti, quali sono gli elementi della sua scrittura che più ti hanno convinto? Allora, intanto il testo era bello, mi ha convinto la trama. Mi ha convinto questo desiderio di utopia che appartiene sempre ai giovani, un altro mondo possibile su una via alternativa, no? Che non può essere o questo o quello, ma vediamo se c'è un altro sguardo. E il lavoro appunto di un'utopia applicabile su dei sogni possibili, quindi c'è la tradizione che appartiene appunto a tutta la tragedia, con invece questo sguardo nuovo che appartiene al Novecento, cioè a tutta l'utopia del Novecento. E Antonio Piccolo ha fatto questa scrittura appunto attingendo a piene mani chiaramente da oltre da Sofocle anche da Nuil e da Brecht, quindi guardando appunto i risvolti che sono stati fatti nel corso dei secoli, guardando Antigone come elemento ribelle, contro un potere costituito. Sì. Raffaele, come hai pensato la messa in scena? Dunque, la messa in scena, secondo l'indicazione di Antonio, che immergeva in un luogo, in un tempo astratto, io mi sono, cioè, facendo proprio un gioco, appunto, immaginavo una sorta di purgatorio, una sorta di limbo dove non esiste, cioè non c'è una pena come l'inferno o come, oppure salvati come il paradiso, ma un purgatorio come se, non avendo futuro, tu puoi solo raccontare un eterno passato. Il tuo presente è questo qua, raccontare l'eterno passato. E quindi c'è come se fosse una sorta di sospensione. E mi sono venute in mente due immagini che di tempo fa, sfogliando un libro di fotografia. Uno era Fukushima e un altro era Chernobyl, cioè luoghi abbandonati, non bombardati, cioè una città che è stata svuotata dall'uomo, e quindi la natura ha fatto il resto. E c'era un Luna Park molto interessante del Chernobyl, che era completamente avvolto dalla natura, cioè le piante erano impadronite delle macchinette della ruota panoramica, cioè era una potenza di immagine. Quindi ho immaginato appunto un luogo che poteva essere un luogo abbandonato, e ho ambientato la mia scenografia in questa giostra, una giostra abbandonata. Nella trasposizione avete interagito con Piccolo? All'inizio abbiamo fatto delle prove di lettura dove lui era presente, poi dopodiché come buon uso l'autore si fa da parte e lascia la creatività agli attori, sì, e alla messa in scena. Sì, quindi, sì. È stato un lavoro di grande complicità, mm-hmm. Però noi abbiamo rispettato integralmente il testo, cioè non abbiamo fatto nessuna operazione di riscrittura, non ce n'era bisogno. Per quanto riguarda la tappa romana, da cosa è stata preceduta e da cosa sarà seguita? Allora, la tappa romana è stata preceduta da una prima nazionale fatta al Teatro San Ferdinando di Napoli, il teatro di Edoardo De Filippo, ed è stata per noi una bella sfida, perché entrare appunto con un testo napoletano di un autore giovane contemporaneo nel tempio della tradizione napoletana, puoi capire, è come se tu vai alla Mecca, no? Cioè, è una cosa molto significativa per noi. Sì. E lì abbiamo avuto il grande consenso, un bellissimo successo, anzi è stato un tam-tam, cioè alla fine delle ultime due repliche abbiamo avuto il sold out. Con grande piacere per la produzione, che ha dovuto mandare via gli spettatori. Questa tappa di Roma per noi è molto importante, anche perché è l'occasione, domani si presenterà il libro alla Sala Squarzina, quindi sarà anche per Piccolo una sorta di ufficialità nel presentare il suo testo, e poi ci saremo a Bologna, la Sala Salmon concludiamo quest'anno a Torino, sì, per poi continuare la stagione prossima sempre con la tournée che si sta delineando in questi giorni. Ecco, a questo proposito, per saperne di più, come riferimento web c'è un sito internet, una pagina Facebook? C'è un sito internet che chiaramente è quello del Teatro di Roma, dove ci sono, sì, cioè, tutte le indicazioni, teatrodiroma.net, chiaramente c'è il Teatro Stabile di Napoli, che è anche un altro sito, e su Facebook c'è un evento, mi sembra, evento Emone, la tragedia di Antigone secondo il racconto dell'innamorato. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento al Teatro India a Roma del 10 al 15 aprile, un ringraziamento e un saluto al regista Raffaele Di Florio. Raffaele, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie a voi e buon proseguimento di giornata, arrivederci.